Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Giovanni Bonetti. Siamo a Los Angeles, è il 10 aprile del 1972. È un giorno, una sera, per meglio dire, che gli americani ricordano ancora. È la 44esima edizione della cerimonia di premiazione degli Oscar. Il 1972 è un anno che vede all'apice la guerra in Vietnam e i movimenti di contestazione giovanile. Gli Stati Uniti, e con essi il mondo, stanno attraversando un cambiamento. I film che vincono gli Oscar quell'anno ne sono una lampante testimonianza. Vince Jane Fonda, paladina della rivolta contro i valori tradizionalisti. Vincono gli attori del film L'ultimo spettacolo, pellicola di Peter Bogdanovich, che racconta la disillusione dei giovani americani di provincia. E soprattutto fa incetta di Oscar dal miglior film alla miglior regia Il braccio violento della legge, film che sullo sfondo di una guerra tra poliziotti e criminali racconta una nuova concezione dello scontro tra buoni e cattivi, in cui i ruoli si confondono. Le pellicole di questi nuovi autori raccontano storie diverse, ma tutte hanno dentro di sé un messaggio, il suono della voce di un figlio che critica senza paura il proprio padre. La voce di una generazione che ha bisogno di guardare in faccia gli errori del passato e del proprio presente. L'apoteosi di questa nuova idea, quella sera, raggiunge il culmine quando, dalle mani del presidente dell'Academy, Daniel Taradash, viene consegnato un Oscar alla carriera. The inscription reads to Charles Chaplin. A Charles Chaplin, per aver fatto delle immagini in movimento una forma d'arte del XX secolo. È un applauso che parte lento, come un'onda. Sarà l'applauso più lungo della storia dell'Academy. 7 minuti e passa. Chaplin è commosso, non sa che dire. Ma il pubblico è più commosso di lui, perché non è solo lì a rendere omaggio a un genio della settima arte. Tutti gli attori, i registi, i produttori presenti sentono di avere come rappresentanti in qualche modo del proprio paese un debito di riconoscenza per l'esilio che ha allontanato Charlot dagli Stati Uniti. Sono lì per riaccogliere, dopo 20 anni di lontananza, il poeta del cinema che avevano cacciato. Chaplin è uno dei più grandi artisti del XX secolo e nessuno può immaginare cosa sarebbe stato il cinema senza il suo passaggio. Basta sentire in proposito le parole di due mostri sacri del cinema come Truffaut e Fellini, che ne parlano quasi in toni sacrali. Parlare di Chaplin è dunque anche parlare della storia del cinema. Se da un lato il linguaggio chapliniano sembra attraversarla intoccato e monocorde, dall'altro esso è costantemente portatore di prospettive storiche che si trasformano nel tempo, facendo forse della sua opera oggi la più misteriosa della storia del cinema. Come cineasta posso solo dire che Rossellini è stato Omero per tutti noi. Chaplin è stato Adamo, un progenitore. Discendiamo tutti da lui. Perché l'America, 20 anni prima di quella sera, aveva chiuso le porte in faccia a un artista che le aveva dato lustro in tutto il mondo? Quali erano le terribili colpe di questo piccolo uomo e dei personaggi che aveva raccontato nei suoi film con tanta grazia e profondità? Senza rendersene conto, è lo stesso Chaplin a darcene una risposta, quando descrive così il suo alter ego, Charlot. Il mio vagabondo, all'inizio lo consideravo soltanto una figura satirica. Ma poi, nella mia mente, i suoi indescrivibili pantaloni cominciarono a rappresentare una rivolta contro le convenzioni. I suoi baffi, la vanità dell'uomo, il cappello e il bastone erano tentativi di dignità e i suoi scarponi gli impedimenti che lo intralciavano sempre. Gli scarponi di Charlot. Nella vita di Chaplin quegli scarponi hanno una faccia e un nome. E dagli anni 40 in poi diventano sempre più grandi e pesanti, impedendogli di camminare liberamente. Quegli scarponi hanno la faccia grossa e perennemente sudata e il nome di chi indossa quel viso flaccido e rubicondo: Joseph McCarthy. Joseph McCarthy. Daniel Taradash, il presidente dell'Academy che consegnò l'Oscar a Chaplin, disse: Chaplin has become more than a name. Chaplin non è più solo un nome, ma tutto diritto è diventato una parola nel vocabolario del cinema. It don't mean a thing. All you got to do is sing. It makes no difference if it's sweet or hot. Just keep that rhythm, give it everything. McCarthy divenne una parola del dizionario. Il maccartismo è un termine che indica ancora oggi un atteggiamento accusatorio e persecutorio verso persone o gruppi ritenuti sovversivi, pur in assenza di valide prove a sostegno. La battaglia che McCarthy costruì nei confronti di Chaplin è la battaglia tra due mondi diametralmente opposti di vivere e pensare la vita. Senza Chaplin, senza delle persone che avevano il coraggio di esprimere le proprie idee e di rivendicare il diritto di farlo, McCarthy politicamente non sarebbe potuto esistere. D'altro canto, senza l'esistenza di personaggi come il senatore McCarthy, l'arte di Chaplin non avrebbe raggiunto le vette che in realtà ha toccato. Il cinema di Chaplin è stato spesso di una comicità assoluta, ma il suo riso profondo nasce dalla critica alle ingiustizie e alle prevaricazioni universali. È paradossale che nell'elaborazione d'una comica la tragedia stimoli il senso del ridicolo, perché il ridicolo, immagino, è un atteggiamento di sfida. Dobbiamo ridere in faccia alla tragedia, alla sfortuna e alla nostra impotenza contro le forze della natura, se non vogliamo impazzire. E McCarthy, dal dopoguerra fino a metà degli anni 50, è davvero una forza della natura, in grado di creare, come ebbe modo di dire anni dopo Eleanor Roosevelt, una vera e propria ondata di fascismo, la più violenta e dannosa che questo paese abbia mai avuto. La tempesta McCarthy nasce da condizioni climatiche molto favorevoli. Appena finita la guerra, prende piede in America la cosiddetta dottrina Truman, dal nome del presidente che l'ha formulata. Questa nuova direzione politica mira al contenimento del comunismo e dell'espansione sovietica in tutto il mondo e comporta anche una inchiesta per verificare i trascorsi politici degli impiegati del governo federale. Se con la politica del contenimento gli Stati Uniti decidono di assumere su di sé la responsabilità della tutela dell'ordine democratico nel mondo, con l'inchiesta sulla fedeltà dei propri funzionari fanno propri i metodi adottati dal nemico. Di fronte al pericolo comunista, la democrazia americana sceglie di restringere pian piano gli spazi di libertà di cui era sempre andata fiera. McCarthy è l'effetto, la pianta che nasce da un terreno marcio. Il suo unico desiderio è crescere e diventare qualcuno nel panorama politico nazionale. Dicendo cosa, facendo cosa, non ha molta importanza. Lo racconta anche un suo collaboratore dell'epoca, Jim Lohan. Era una sera fredda ed era in corso un vero e proprio diluvio. McCarthy portò me e altri suoi collaboratori a cena fuori. Era davvero giù di corda, era depresso, perché in un sondaggio tra i giornalisti politici più influenti era stato votato come uno dei peggiori senatori di Washington. Le elezioni si stavano avvicinando e lui sentiva di avere pochissime possibilità di essere rieletto. Ci invitò a buttare giù dei possibili temi per la campagna. Voleva qualcosa, qualsiasi cosa che potesse servire a far più clamore possibile. Discutemmo un po' e all'inizio prevalse l'idea di impostare la campagna sul piano pensione per gli anziani. McCarthy sembrava convinto, finché qualcuno, non mi ricordo chi fosse, propose di puntare sulla battaglia contro il comunismo in America. Per McCarthy è così che nacque tutto. Il neo senatore McCarthy si trova a meraviglia in questo clima da caccia alle streghe. Con la complicità del suo amico e direttore dell'FBI, J. E. Hoover, comincia la sua battaglia contro i cosiddetti comunisti americani. Inizia ad attaccare il Dipartimento di Stato, sostenendo in un discorso in West Virginia che almeno 205 persone che ne fanno parte sono membri del Partito Comunista. In successivi interventi, senza mai fare i nomi, sosterrà che sono 57 gli uomini coinvolti e in un'audizione in Senato parlerà di 81 persone. McCarthy crea una macchina di fango, la cui benzina viene fornita dagli uomini di Hoover, come racconta anni dopo William Sullivan, un agente dell'epoca. Eravamo noi a fornire il materiale con cui McCarthy fabbricava i suoi discorsi. Lui era una delle bocche con cui Hoover, sempre nell'ombra, poteva far sentire la sua voce all'America. La bocca di McCarthy è quella che rimbomba più forte nelle sale del Congresso dove svolge le sue sedute a capo di una sottocommissione governativa. Poco alla volta le sue audizioni diventano dei processi sommari. In un sistema degno delle purghe sovietiche, non è più l'accusatore a dover dimostrare la colpevolezza, ma è l'accusato che è costretto a portare le prove della propria innocenza. McCarthy aggredisce psicologicamente le persone che accusa con arroganza. Lei ha fatto parte del Partito Comunista nel corso dell'ultimo anno? No. Lei ha fatto parte del Partito Comunista nel corso degli ultimi 2 anni? No, mai. Lei ha fatto parte del Partito Comunista nel corso degli ultimi 3 anni? No. Chi nel paese è d'accordo con la crociata del senatore esulta. Chi non è d'accordo, nella maggior parte dei casi, rimane nell'ombra, con la paura di essere a sua volta accusato. Hoover, che è l'uomo che rimane dietro il sipario quando McCarthy sale il palcoscenico, sente che è il momento giusto per poter attaccare anche uno degli uomini più amati dalla nazione, Charlie Chaplin. Chaplin, come tutti i grandi artisti, ha un genio dentro di sé che è una sorta di spugna. Si impregna della realtà, la fa sua e poi la restituisce al mondo come una melodia sublime. Il suo vissuto diventa arte, come ebbe modo di osservare anche Sigmund Freud dopo aver visto Il Monello, uno dei capolavori di Chaplin e della sua maschera, Charlot. È certamente un grande artista ed è fuori di dubbio che ritrae sempre e solo la stessa figura, il ragazzo debole, povero, disgraziato e maldestro, a cui alla fine va sempre bene. Pensate forse che per interpretare questo ruolo si sia dimenticato del suo io? Al contrario, non fa che recitare se stesso come era nella sua prima, sfortunata giovinezza a Londra. Sono impressioni cui non può sfuggire. E così facendo, ancora oggi ottiene un risarcimento per le frustrazioni e le umiliazioni patite in quel periodo della sua vita. But what I got is a heart full of love and memory. I got a dolly like you. In realtà Chaplin non si limita a raccontare il suo io e il mondo della sua infanzia difficile a Londra. Quel suo universo è diventato pellicola dopo pellicola, un luogo metaforico dove spesso si svolgono e si dipanano conflitti universali. È la sua visione di questi conflitti, a cui partecipano milioni di spettatori in America e nel mondo, a renderlo un nemico mortale per Hoover fin dagli anni 30 e per McCarthy nel dopoguerra. Hoover nutre nei confronti di Chaplin una vera ossessione. Da direttore dell'FBI costruisce migliaia di pagine di dossier per infangare il suo nome. Spazia dalle accuse di favoreggiamento della prostituzione a quelle di essere un comunista. Nel 1944 Chaplin viene accusato dall'FBI di stupro nei confronti di una sua ex amante, Joan Barry, mentalmente squilibrata, che dichiara di aspettare da lui un figlio. David Robinson, biografo di Chaplin, spiega in un documentario le tattiche usate da Hoover. Il caso Joan Barry fu orchestrato ad arte dall'FBI. E ci sono le prove di quello che dico. Charlie Chaplin subisce il processo e viene scagionato da tutte le accuse. Ma Hoover continua ad attaccare. Una delle sue tecniche consolidate è quella di attaccare sempre su più fronti. Se sul piano giudiziario non riesce a incastrare le sue vittime, può comunque azzannarle attraverso le calunnie che fa vomitare dalle penne di giornalisti prezzolati. Hoover, 3 giorni dopo il processo, fa scrivere a Ed Sullivan, un editorialista di gossip, questo articolo su Charlie e la moglie Ona. Se Chaplin avesse perso il processo, il console russo sarebbe stato autorizzato a bloccare un aereo sovietico per portare Chaplin a Mosca. Lui e la moglie Una stanno studiando il russo, come ho riferito tempo fa. Hoover e McCarthy odiano Chaplin perché per loro è un nemico difficilmente controllabile. È un uomo che è stato poverissimo e che racconta la povertà. Racconta le ingiustizie sociali, ma non lo fa dal palco di una qualche campagna elettorale. Lo fa raccontando e mostrando storie che arrivano al cuore della gente. E la gente sente un artista che racconta la verità, una verità che ha vissuto sulla sua pelle. Chaplin non è un albero di cartapesta, ha radici profonde. Il suo talento è nutrito fin da bambino dall'osservazione degli uomini. Se non fosse stato per mia madre, non avrei mai avuto successo con la pantomima. Era uno dei mimi più grandi che abbia mai visto. Sedeva per ore alla finestra, osservando la gente giù nella strada e descrivendo con le mani, gli occhi e l'espressione del viso esattamente quello che accadeva da basso. Intanto lanciava un fuoco di fila di commenti ed è stato osservando e ascoltando lei che ho imparato non solo ad esprimere le mie emozioni con le mani e la faccia, ma anche a osservare e a studiare la gente. Questo studio si riversa a pieno in tutte le opere chapliniane, che rispondono a quello che è il suo modo di sentire la società in cui vive. E il pubblico lo adora, perché attraverso la visione dei suoi film riesce a crearsi degli anticorpi contro quella dura realtà che passa dalla Grande Depressione alla Seconda Guerra Mondiale. Chaplin racconta con disarmante semplicità la sua ricetta artistica. Una delle prime cose che imparai facendo teatro è che il pubblico si diverte a vedere il ricco arrogante sbeffeggiato in ogni modo. La ragione ovviamente sta nel fatto che al mondo 9 su 10 sono poveri e segretamente provano rancore per la ricchezza del decimo. È la vita. Forse a qualcuno non piacerà, ma le cose stanno così. Oggi a Destini Incrociati, Charlie Chaplin, il più grande attore comico della storia, sta combattendo il suo destino contro gli uomini che lo cacceranno dall'America, Joe McCarthy e J. E. Hoover. È la storia dell'odio ossessivo di due uomini nei confronti di un terzo. È il racconto di una lunga battaglia tra l'oscurantismo e la libertà di esprimere, anche attraverso l'arte, le proprie idee. L'odio di McCarthy verso Chaplin era freddo e metodico, non viscerale. E non soltanto perché gli arrivava già prefabbricato da Hoover, il suo burattinaio. Una delle caratteristiche dell'indole di McCarthy era quella di non avere principi o veri moti passionali. Era semplicemente assetato di potere. Quando da giovane si butta in politica, lo fa inizialmente con il Partito Democratico. Dice di credere fermamente in Roosevelt e nel suo New Deal. Ma quando viene rifiutato dai democratici come candidato per diventare procuratore distrettuale, cambia bandiera e senza nessuna remora si mette dalla parte dei repubblicani, che gli offrono la chance di candidarsi come giudice circoscrizionale. Così lo ricorda Edward Hart, un avvocato che lavorò con lui durante le sue prime campagne elettorali. McCarthy ha sempre vissuto in un suo preciso universo morale. Non era un universo fatto di principi. L'unico suo scopo era arrivare ai vertici del potere. Lui poneva a se stesso solo due domande: cosa voglio e come posso ottenerlo. E quando cominciava a muoversi, era meglio farsi da parte, perché non faceva prigionieri. L'odio di Hoover per Chaplin era invece più complesso. Non odiava solo ciò che era, ma anche la totale libertà con cui lo esprimeva. Chaplin aveva una vita sentimentale sregolata. Era un anticonformista per natura e viveva alla luce del sole. Non solo. Il suo anticonformismo, attraverso la sua arte, raggiungeva milioni di persone. Hoover, invece, era costretto a vivere le sue passioni nell'ombra. Per 40 anni fu l'amante di Clyde Tolson, vice direttore dell'FBI che lui stesso aveva nominato. Nel bureau venivano chiamati J. Edna e Madre Tolson. Susan Rosenthal, una donna che aveva partecipato alle orge di Hoover al Plaza di New York, ne parla così. Hoover indossava un vestito rosso, con un boa di piume nere al collo. Era travestito da maschietta, come in certe vecchie foto d'epoca. Dopo una mezz'ora sono arrivati alcuni ragazzi, come l'altra volta, solo che stavolta erano vestiti in pelle. E Hoover aveva una Bibbia. Ha voluto che uno dei ragazzi leggesse un brano. E il ragazzo ha letto, non ricordo che brano fosse, mentre l'altro ragazzo faceva certi giochetti con lui, con le mani infilate nei guanti di gomma. Poi Hoover ha afferrato la Bibbia, l'ha gettata a terra e ha ordinato al secondo ragazzo di partecipare ai giochini. L'ossessione di Hoover, che manda gli agenti dell'FBI a interrogare amici e colleghi di Chaplin e a domandare alla sua servitù se l'attore organizzi festicciole spinte con donne nude, non è solo sospinta da fobie e interessi politici, ma anche da turbe psichiche e sessuali. Nei suoi ciechi attacchi, il direttore dell'FBI non risparmia neanche la famiglia del regista. La cugina di Chaplin, Betty, lo ricorda. Per loro, noi eravamo una famiglia ebrea polacca. Evidentemente non avevano fatto ricerche in Inghilterra. E continuavano a sostenere che eravamo delle spie e che Charlie aveva delle idee comuniste. Chaplin sente crescere la pressione intorno a sé, ma non può fare a meno di continuare ad essere se stesso. Nei suoi film ha sempre messo alla berlina i ricchi e i potenti, ha sempre criticato l'ingiustizia sociale e ha intenzione di continuare a farlo. Quando esce il suo film Tempi moderni, molti giornali conservatori, come ci racconta Emiliano Biagio, lo attaccano. In Tempi moderni Chaplin mostra, tra le altre cose, un'invenzione, una macchina pensata per far mangiare l'uomo senza che questi perda tempo prezioso per l'azienda. Molta della critica americana non ha dubbi. Chaplin si schiera con la classe operaia, attaccando e criticando il sistema capitalista. Tempi moderni esce al cinema nel 1936 e sarà l'ultimo film muto di Hollywood. Dappertutto c'è disoccupazione, fame, scioperi, disordini. Il capitalismo sta attraversando una profonda crisi. Nelle intenzioni di Chaplin, il film sarebbe stato lo specchio delle difficoltà che affrontava l'uomo della strada per sopravvivere in società. Charlie rimane molto impressionato dalla conversazione con un giornalista di Detroit che gli parla dei risultati disastrosi che ha la catena di montaggio della Ford sulla psiche degli operai. Chaplin ha deciso. Con Tempi moderni mostrerà il rovescio della medaglia rispetto ai documentari celebrativi della tecnologia applicata al lavoro che giravano nei cinema dell'epoca. La spinach o la bouchon, sigaretta portobello, si rocchi spacca letto, chi le tua, chi le tua. Dopo una ventina di minuti di film, c'è una scena in cui Chaplin cammina per strada e raccoglie una bandiera rossa caduta da un camion. Per caso si trova coinvolto in una manifestazione politica socialista in mezzo ad altre persone come lui. Chissà se si accorge di quello che sta facendo. In ogni caso, quando interviene la polizia a disperdere la manifestazione, a farne le spese è proprio lui, che in apparenza non c'entrava niente. Thomas Burke, saggista e amico di Chaplin, ricorda il subbuglio che quella scena creò nell'opinione pubblica. Sono stati versati fiumi di inchiostro sull'interpretazione di questa scena, come se si trattasse di un appoggio indiretto al comunismo. Charlie voleva solo mostrare come gli automatismi influenzino anche il modo di pensare di chi dirige la società. È sufficiente prendere una bandiera rossa in mano e subito si è presi per comunisti, senza esaminare le caratteristiche individuali della persona coinvolta. La verità è che molti non sopportano che Charlie sia un anticonformista che pensa con la sua testa. Pare che ormai buttare fango sugli altri sia diventato uno sport nazionale. Chaplin sente che il vento sta cambiando in maniera inesorabile. Non passa giorno senza che qualche radio o giornale parli del suo presunto anti-americanismo. Gina Manson, la sua nuova archivista, ricorda di come vide un uomo stanco e preoccupato quando andò a trovarlo nella sua grande casa di Hollywood. La prima volta che andai a casa sua, dissi: «Che bella casa, signor Chaplin!» E lui rispose: «Sì, ma non so ancora per quanto tempo mi faranno rimanere qui». Sapeva che era una questione di tempo. Prima o poi gli avrebbero fatto qualcosa. Il mondo reale di Chaplin si va via via restringendo sotto i colpi di Hoover e della macchina di fango che ha costruito. Ma anche il suo mondo di celluloide è costretto a cambiare. Il cinema muto è finito. Charlot con Tempi moderni scompare. Esce dal mondo con quel suo passo buffo e gentile che si perde all'orizzonte del crepuscolo. Chaplin, con malinconica lucidità, ne prende coscienza. Charlot non può parlare. Non saprei che voce usare. Come riuscirebbe quel vagabondo a mettere insieme una frase? Non è nella sua natura. Per questo motivo Charlot deve darsela a gambe. Ma se proprio Charlot deve sparire, voglio che se ne vada lasciando un messaggio. Il suo messaggio al mondo. Il messaggio con cui Charlot si congeda altro non è che il monologo finale del grande dittatore, il discorso all'umanità che il barbiere ebreo pronuncia dopo essere finito per equivoco nei panni del dittatore di Tomania. Mi dispiace, ma io non voglio fare l'imperatore. Non è il mio mestiere. Non voglio governare né conquistare nessuno. Vorrei aiutare tutti se possibile. Ebrei, ariani, uomini neri e bianchi. Tutti noi esseri umani dovremmo aiutarci sempre. Dovremmo godere soltanto della felicità del prossimo, non odiarci e disprezzarci l'un l'altro. Il monologo del grande dittatore, se da una parte è la fine gloriosa di Charlot che Chaplin ha immaginato e voluto, dall'altro sarà preso come un atto di guerra da parte dei suoi detrattori. Un atto di guerra le cui conseguenze scopriremo tra poco, a Destini incrociati. Got some static with some niggas on the other side of town. Let my little cousin K-Roll, he's a rider now. What they want from us, motherfucking thug niggas. Used to love niggas, now I plug niggas and slug niggas. Am I wrong, niggas making songs trying to get with us? Must be gone, no stress. We in the West, we trust to the chest I bust. Then we ride till the sun come shining back to brighten up the sky. How many die? Heard the Fugees was trying to do me. Look, bitch, I cut your face. This ain't no motherfucking movie. Then we watch the other two die slow. Cash traded in the entertaining than my motherfucking slideshow. Destini incrociati. Oggi a Destini Incrociati vi stiamo raccontando la storia di Charlie Chaplin e dei suoi persecutori, prima Hoover e poi McCarthy. È la storia di due diverse visioni del mondo che si scontrano. Da una parte c'è l'arte e la possibilità di esprimersi liberamente. Dall'altra c'è il desiderio di controllare la vita delle persone e un uso distorto del potere. È la storia di uno scontro che simboleggia una delle contraddizioni più forti contenute nello spirito umano, che egoista per natura anela alla libertà. Chaplin ormai ne ha cerchiato, ma avrebbe anche una possibilità per uscire dal cerchio di fuoco che gli è stato creato intorno. McCarthy, tramite dei suoi emissari, fa sapere a Chaplin che se rinuncia a un certo tipo di tematiche nei suoi film, sarà lasciato in pace. Charlie sorride. Non ha una risposta per una richiesta del genere. Le sue pellicole non sono costruite per tematiche o dogmi, non sono programmate per influenzare in un modo o nell'altro la gente. Chaplin racconta storie, le gioie, i turbamenti, sono la terra in cui prolifera la sua grandiosa pianta creativa. E nella sua terra, che difende con tanta forza, non c'è spazio per richieste o imposizioni altrui. Nel 1947 gira Monsieur Verdù. La storia ricalca quella del pluriomicida francese Henri Landru, che per sue necessità familiari si faceva passare per vedovo, adescava ricche signore e le spogliava di ogni ricchezza per poi strangolarle. Il tema non era certo tra i più educativi, ma quello che forse indispettì le autorità e la censura erano gli interrogativi che il personaggio chapliniano poneva allo spettatore. Si può condannare un uomo che uccide per ottenere denaro utile a sostenere la famiglia, quando le stesse persone chiamate a giudicare rappresentano un ordine che permette l'uccisione sempre maggiore attraverso l'industria delle armi? Ecco le parole di Verdù di fronte al tribunale che lo giudica. Parole che porteranno Chaplin ad essere apertamente accusato di filocomunismo. Scandalizzarsi per la natura dei miei crimini è una vera e propria ipocrisia. Voi vi compiacete del delitto, lo legalizzate e lo adornate di ghirlande d'oro. Voi lo celebrate con trionfi e fanfare. L'assassinio è l'attività imprenditoriale su cui prospera il vostro sistema e si afferma rigogliosa la vostra industria. Per la prima ed unica volta nella storia dei suoi film, la pellicola si conclude con una piccola chiosa su schermo nero appena prima del titolo The End. Non è Verdù a parlare, ma è lo stesso Chaplin. La sua voce in questo momento sta guardando Hoover e McCarthy, e dall'alto dello schermo li canzona, prende in giro la montagna d'odio che loro gli hanno riversato addosso. Vorrei dirvi, come si suole, che fatti e personaggi sono immaginari. E qualsiasi riferimento che per dannata ipotesi coincidesse con la realtà è puramente accidentale. D'accordo? Buonasera. Il film in America viene boicottato e bollato come un film anti-americano. I censori di Stato, guidati da Hoover, scrivono una lettera a Chaplin che ha i toni burocratici dell'accusa e della minaccia. Sorvoliamo quegli elementi che ci sembrano antisociali nella concezione e nel significato, come le parti della storia in cui Verdù accusa il sistema e impugna la struttura sociale esistente al giorno d'oggi. Piuttosto vorremmo richiamare la sua attenzione su ciò che presenta un aspetto ancor più critico, ed è propriamente materia di giudizio per il codice penale. Da quel momento Chaplin non ha più pace. Viene convocato dalla sottocommissione di McCarthy, ma rifiuta di presentarsi. Si limita a scrivere una lettera al presidente Thomas, in cui afferma di non essere mai stato comunista, ma se ci tiene a saperlo, sicuramente un pacifista convinto. Spinti da Hoover, giornalisti televisivi e della carta stampata ad ogni occasione gli pongono sempre la stessa domanda. Lei è un comunista? Tirano fuori nuove e vecchie storie, come le frasi di Chaplin in appoggio all'Unione Sovietica, pronunciate però quando era una nazione alleata degli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale. Chaplin è esasperato dal doversi continuamente difendere da false accuse. Grazie signore e signori della stampa. Non voglio farvi perdere tempo. Prego, date inizio alla carneficina. Può rispondermi in modo diretto? Lei è un comunista? Non sono comunista. È un simpatizzante comunista? Vediamo di capirci. Dirò solo questo. Durante la guerra simpatizzavo per la Russia perché stava resistendo, e me ne ricordo bene e penso che dobbiamo esserle grati. La vita americana di Chaplin è giunta al capolinea. Il suo ultimo film sul suolo statunitense è Luci della ribalta, una pellicola che sa tanto di malinconico addio. Fili, smettila! Smetti! Phyllis, vieni fuori! Vieni fuori! Cosa ti credi di fare, idiota? Phyllis, adesso basta, eh? Phyllis, vuoi che mi gratti? Ma non è Phyllis! È la storia di un clown invecchiato, a cui il pubblico ha voltato le spalle. È un film amaro, che si conclude con la morte dell'artista sul palcoscenico. Appena finite le riprese del film, Chaplin si imbarca con la famiglia per un viaggio in Gran Bretagna. A Hoover e McCarthy si presenta l'occasione per sbarazzarsi una volta per tutte di Charlie. Non essendo cittadino statunitense, una volta partito per il suo viaggio e lasciato il territorio americano, Chaplin si vede negato il visto di rientro dalle autorità federali, perché straniero indesiderato. Chaplin non può più mettere piede negli Stati Uniti. Il senatore McCarthy saluta come una vittoria patriottica il forzato esilio di Chaplin. Hoover gongola nell'ombra. Quante volte Charlot, con bombetta e bastone, ha sbeffeggiato personaggi come loro? Quante volte nei suoi film lo abbiamo visto fuggire con piroette capriole da uomini malvagi e truci che lo accusavano di cose che non aveva mai commesso? Chaplin ha detto: «Credo nel potere del riso e delle lacrime come antidoto al terrore». Non era il solo a crederci. Milioni di persone nel Novecento si sono rifugiate nelle sue pellicole dove, diversamente dalla realtà, trionfava la speranza in un mondo diverso, in cui ognuno potesse esprimere la propria natura. Chaplin è stata una creazione meravigliosa. Perfette e intoccabili nei suoi film escono le esperienze dell'infanzia e della povertà, che danno vita a un sogno costante di un mondo giusto e umano. Il suo amico Max Eastman scrive di lui queste parole. Dobbiamo considerarlo un bambino senza tetto ed esperienza, un sognatore, un monello gentile, un foglio di carta ricoperto di parole sacre, portato dal vento nelle strade dei bassifondi di Londra. Eccoci allora giunti quasi alla fine della nostra storia. Nel dicembre del 1954, il Senato americano, a maggioranza democratica, decide di censurare i processi sommari instaurati dal senatore McCarthy e di condannarlo per condotta contraria alle tradizioni del Senato. In 165 anni, era la terza volta che una parte del Congresso degli Stati Uniti sanzionava un suo membro. Perso il seggio, e quel che più conta, compromesso l'onore politico, Joseph McCarthy non riesce più a riprendersi. Si dà all'alcol e viene ricoverato più volte in ospedale. Muore il 2 maggio 1957. Hoover, che aveva scaricato McCarthy appena era cominciato il suo tracollo, resta a capo dell'FBI fino al 1972, l'anno della sua morte. Lo stesso in cui Chaplin viene in America. La figlia Geraldine commenta così quella decisione. Mia sorella Josephine ed io eravamo contrarie che andasse in America, ma lui insistette. Per lui era l'occasione della vita. E quando gli americani gli diedero un visto per soli 10 giorni, noi ci arrabbiamo moltissimo. Ma come potevano fargli questo dopo più di 20 anni? Ma lui invece era molto soddisfatto e ci diceva: «Vedete, hanno ancora paura di me». Eccoci di nuovo al 10 ottobre del 1972, la sera della notte degli Oscar, la sera in cui il cinema americano raccoglie il padre che aveva scacciato. Chaplin, quando esce sul palco per ricevere l'Oscar alla carriera, appare felice e quasi intimorito. Dopo tanti anni sente il calore di un pubblico invisibilio per lui. All'inizio non riesce a parlare perché le parole gli si strozzano in gola. Poi si avvicina al microfono e pronuncia con delicatezza qualche parola. Il suo tono è quello della gratitudine, di chi sente che quello che ha costruito nella vita non è stato vano. I can only say that thank you for the honor of inviting me here and oh, you're wonderful, sweet people.